Il mese di febbraio, come sappiamo, è Black History Month. In questa occasione, fino al 28 febbraio, la città di Bologna si riempie di eventi, presentazioni, mostre nella quarta edizione di Black History Month Bologna, realizzata in collaborazione con settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Siamo qui con Jean Blaise Guimpac, attivista del team di Black History Month Bologna. Quest'anno il progetto ruota intorno al tema rappresentazioni. Ti va di raccontarci come è stato scelto questo tema e quali saranno i suoi punti centrali? Il tema è stato scelto in base a quello che vediamo, come veniamo anche raccontati, sia nei media o negli eventi che ci circondano in questa nostra città, e come noi stessi cerchiamo anche di raccontarci o di essere presenti all'interno della nostra società. Quindi è un tema su cui abbiamo ragionato tanto, e con il nostro direttore Patrick Aceda abbiamo pensato che sia proprio adatto per il momento. Perché, come dico, ci sono dei luoghi comuni che usiamo spesso che comunque concorrono direttamente o indirettamente a come vediamo l'altro, a come l'altro viene rappresentato per noi. Quindi questo è stato un po' una delle vie che ci ha portato a scegliere il tema rappresentazioni. In questo mese ci saranno incontri dedicati ad arte, letteratura, cinema, musica, ma come sono stati selezionati i diversi materiali e quali sono i messaggi che saranno proposti al pubblico? Partiamo dal presupposto che noi del Black History Month cerchiamo di portare avanti la voce di tutto e di tutti quelli che rappresentano queste culture, queste origini, e quindi la scelta delle iniziative che noi proponiamo, allora, tante sono anche legate a delle scelte proprie delle associazioni o degli attivisti che vogliono partecipare con noi, nel senso che noi cerchiamo di dirle più o meno sotto che tema verrà svolta l'iniziativa, e loro ci propongono anche delle iniziative proprie. Quindi noi lavoriamo molto in coproduzione, copromozione, coproduzione, quindi facciamo tutto, cerchiamo di fare le cose un po'. Non siamo i maghi e non abbiamo la possibilità di fare tutto da soli, e quindi cerchiamo di collaborare molto con le istituzioni, le enti, gli attivisti, chiunque si avvicina al mondo Black History Month. Così scegliamo insieme iniziative o proponiamo anche noi iniziative che si possono realizzare in determinati posti. Questa è un po' un'idea di metodologia che adottiamo. Per quanto riguarda invece la letteratura, ad esempio, quali saranno i prossimi appuntamenti di presentazione? Sì, in questo momento abbiamo, allora, siccome ha detto all'inizio, noi ci siamo concentrati, abbiamo cercato di lavorare molto con il centro della biblioteca Amilcar Cabral, che è una biblioteca dedicata all'Africa, Asia e Oriente, e ci sembrava giusto partire proprio da un luogo come quello per portare avanti diverse iniziative letterarie. Quindi in questa nostra edizione abbiamo scelto di proporre alla cittadinanza una rassegna, un elenco di autori tradotti esistenti sia in Italia che all'estero, che possono consultare lì. Questa è stata la prima cosa che ci siamo detti: cerchiamo di tirar fuori un po' di letteratura nera e afrodiscendente. E da lì è partita anche l'idea di presentare opere o scritte da ragazzi neri e afrodiscendenti che stanno qui o meno. In quest'ultima cosa abbiamo la possibilità di ospitare un paio di scrittrici nel mese, e di presentare il lavoro di altri scrittrici o scrittori che forse non sono già morti o non sono più vivi, però di cui le opere sono attuali. Ci teneva anche portare avanti questi lavori qua. Noi abbiamo una serie di presentazioni di libri e di lavori, tra cui uno sulla decolonizzazione e contemporaneità, che si farà l'11 febbraio alle 18:30. Questo evento è stato organizzato in collaborazione con la Confraternita dell'Uva. Presenteremo anche un po' dei lavori di Richard Wright, Ralph Ellison e James Baldwin, sempre con la Confraternita dell'Uva, il 17 di febbraio alle 18:30. Per chi è interessato, il 21 avremo l'onore di ospitare qui a Bologna, alla biblioteca Amilcar Cabral, la scrittrice Esperance Ripanti, che ci presenterà il suo ultimo libro Tutta Intera, e il 28 di febbraio presenteremo un libro di Bell Hooks che si intitola Da che parte stiamo, in presenza della traduttrice del libro. E tra l'altro quel stesso 28 alle 16 ci sarà un laboratorio con Marie Moïse, che è la traduttrice del libro di Bellux, un laboratorio a cui possono accedere tutti, e tutto si svolgerà al centro Amilcar Cabral. Quindi queste sono più o meno le proposte letterarie che noi abbiamo cercato di portare avanti, oltre a un elenco abbastanza lungo di autori che noi consigliamo di iniziare a leggere. Allora ricordiamo a tutti di visitare il sito Black History Month Bologna per maggiori informazioni.